noi diciamo un po' su tutto il tema dell'alternanza scuola-lavoro siamo in qualche modo un po' critici, nei termini per cui crediamo che l'istruzione, la scuola anche in senso più ampio, debba essere uno strumento di emancipazione in primis e di formazione del pensiero critico. Crediamo quindi che poi il ruolo che assume l'ambito scolastico quando c'è l'elemento dell'alternanza scuola-lavoro viene un po' modificato e quindi diventa la scuola che diventa in qualche modo mezzo per non più l'emancipazione della persona, bensì mezzo per diventare parte del sistema produttivo. Quello che è successo diciamo in questi giorni, il tema dell'alternanza scuola-lavoro, crediamo che poi il problema vero sia all'origine, cioè crediamo che questo tipo di diciamo di iniziativa, come è almeno attuata oggi, è sbagliata, non è il modo adeguato. Crediamo invece che piuttosto di fare alternanza scuola-lavoro si possa fare dei processi come l'istruzione integrata, che ha la nostra rivendicazione rispetto al tema dell'alternanza, che propone un avvicinamento agli studenti del mondo del lavoro, che però non sia strumentale al diventare parte del sistema produttivo, ma che invece ti avvicini in senso più ampio, diciamo, e meno sistematico. Quindi servirebbe appunto un cambiamento del modello stesso, più che appunto l'istituzione, esatto, di un fondo del genere. In cosa consisterebbe secondo voi questa proposta appunto che fate per sostituire in un certo senso l'alternanza scuola-lavoro? Cioè, noi ci immaginiamo dei processi per i quali gli studenti vengono formati sul mondo del lavoro, quindi magari anche assistono a cosa vuol dire oggi lavorare, vengono formati anche proprio in ambito di diritto del lavoro e in realtà non solo, magari anche facendolo in modo non frontale, cioè magari niente, provando ad avere un dialogo aperto con gli studenti e che possa permettere quindi sì di avere delle competenze rispetto a quello che poi sarà la vita dopo lo studio e che comunque cioè, ti avvicina al mondo del lavoro, ma che però non sia parte del sistema produttivo, quindi il ragazzo non andrà più nell'azienda, nella fabbrica, non sarà più proprio parte della catena, piuttosto verrà formato in ambiti differenti. Poi appunto cioè, noi crediamo che per quanto ci sta giusto anche che ci siano questi fondi, dopodiché crediamo che il vero problema sia all'origine e sia anche diciamo in senso più ampio rispetto a come viene percepita ad oggi la scuola. E invece per quanto riguarda gli istituti tecnici e professionali, in cui comunque l'alternanza scuola-lavoro è parte integrante del percorso formativo, cosa ne pensate? Noi in realtà un po' su tutti gli istituti tecnici facciamo una riflessione rispetto proprio a qual è lo strumento e come viene percepito l'istituto tecnico, perché cioè diciamo ad oggi, nonostante non sia magari evidente come lo era 20-10 anni fa, esistono ancora delle scuole di serie A e delle scuole di serie B, nei termini per cui tra licei e istituti tecnici c'è una preferenza rispetto alle possibilità, rispetto alle capacità, e quindi c'è diciamo tutto il ragionamento sull'istituto tecnico si trova perfettamente nel ruolo che ha quel contesto lì. Il PCTO però è anche molto più profondo, cioè riflettere proprio sul perché l'istituto tecnico è il posto nel quale vengono lasciati, oppure si sceglie, cioè il ragazzo sceglie l'istituto tecnico perché dà uno sbocco lavorativo più immediato, deve essere uno spunto di riflessione rispetto a proprio come si percepiscono le scuole e gli istituti tecnici. E invece parlando anche magari con i ragazzi, le ragazze, quali sono le loro opinioni rispetto all'alternanza scuola-lavoro? Per come viene fatto ad oggi, l'alternanza scuola-lavoro dalla maggior parte degli studenti viene considerata un po' quasi come inutile, anche perché spesso i ragazzi vengono mandati in posti che c'entrano anche molto poco col proprio indirizzo scolastico, spesso cioè ci sono anche molte poche elementi di arricchimento, cioè ad oggi i percorsi di alternanza non sono percorsi realmente arricchenti proprio anche proprio in termini di esperienza, per cui io credo che anche in realtà parlando nelle scuole gli studenti e in primis in realtà anche io come studentessa ho vissuto l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, però cioè, non credo che ci sia una reale utilità, non credo neanche che raggiunga lo scopo che cioè, evidentemente per noi è sbagliato, però diciamo in generale non credo neanche raggiunga l'obiettivo per come è fatta oggi l'alternanza scuola-lavoro.